questo giovinotto abbia il conto la stravaganza udito. Ah, tu non sai, ma per qual causa mai da me stessa e non venne. Dove la canzonetta? Eccola. Appunto, facciamo che ce la canti. Zitto. Piangente. Ed esso. Avanti, avanti, signor ufficiale. Amo che a farmi con nome si fatale. E mi rammenta che amando mar di Gio con mare tanto buono. E tanto bella. Ah, sì, certo. Certo, ippocratone, io presto la canzone che stamani a me ne stamata ma cantate. Chi nell'occo? Guardate, egli ha due braccia di rossor sulla faccia. Prendi la mia chitarra e la accompagna. Io sono sì tremante.